canzone sulla e al guardo mio si tela. Quanta dovizia in questa povertà, in questo asil quanta felicità, quanta dovizia, quanta dovizia in questa povertà. In questo asil quanta felicità.